Vi presentiamo ora Eclettica. Le trasmissioni proseguono ora a diffusione regionale. Spettacolo di cartoni animati. Thank you. Marty. Yeah. I've made a decision. Uh-huh. I'm not going with you tomorrow. I'm staying here. What are you talking about, Doc? There's no point in denying it. I'm in love with Clara. Oh, man. Doc, we don't belong here. Neither one of us. You know, it could still be you that gets shot tomorrow. This tombstone could still be in your future. Marty, the future isn't written. It can be changed. You know that. Anyone can make their future whatever they want it to be. I can't let this one little photograph determine my entire destiny. I have to live my life according to what I believe is right. In my heart. Doc, you're a scientist. So you tell me, what's the right thing to do up here? Tell me what the facts be. They be my past me. Audacity and some of the tracks. Per un uomo di 70 anni sei in ottima forma, commentò il dottor Glazunov alzando gli occhi dall'ultimo tabulato stampato dal Medcom. Io non te ne darei più di 65. Mi fa davvero piacere, Oleg, tanto più che ho 103 anni, come tu sai benissimo. Ecco che ci risiamo, come se tu non avessi letto il libro della Rudenko. Povera Caterina. Avevamo deciso di vederci in occasione del suo 100° compleanno. Mi è spiaciuto molto che non ci sia arrivata. Ecco che cosa succede a passare troppo tempo sulla Terra. Questo era l'incipit di 2061, Odissea 3, di Arthur C. Clarke. Ch'io possa esser dannato se non ti amo. E se così non fosse, suavemente delicata di un profumo che dà gli spasmi. Ah, tu non fossi mai nata. Tutto parole. Paolo Benvenu a rifare Domenico Modugno con molta, molta intensità, un estratto dal suo EP che preannuncia un album che però ci sarà solo nel 2008, ma ci sarà da attendere poco perché il mese in cui uscirà è quello di febbraio. Prima ancora ci siamo ascoltati due interessanti proposte, la prima dall'Inghilterra, Fuck Buttons, ad anticipare un album che uscirà dal titolo Street Horsing per la formazione Fuck Buttons, era il brano che ha aperto Eclettica di quest'oggi, brano intitolato Sweet Love for Planet Earth. per proseguire poi con White Denim che ci siamo ascoltati con Mess Your Hair Up, una autoproduzione che arriva dal Texas, dove White Denim non è nient'altro che un pseudonimo dietro cui si nasconde Bob Terry Mullard. Ed ora una formazione che proviene dal Galles, da Cardiff, per la precisione una formazione che si chiama Los Campesinos, con il punto esclamativo in fondo. È una formazione allargata di 8 elementi, in cui ciascuno degli 8 elementi ha il cognome Campesinos, con il punto esclamativo in fondo. Vi ricorda qualcosa questa scelta? A me sì. We throw parties, you throw knives. È questo il brano che ci ascoltiamo dalla band gallese. When you play past the parcel with human body parts, somebody might get hurt, but someone will get hurt. And I'll sing what you like if you shout it straight back at me. About things, but you left talcum powder all over the bathroom. And yeah, it's great, you can blur smoke rings, but you won't taste her lips if you do get to kiss her. And it's your party, but I'll die if I want to. I'll die if I want to. But the fresh air was better, and I couldn't tell if the singer's keyboard was a crutch or a synthesizer, but it sounded like he'd broken a limb each and every time he pushed the key down or in. There's red stains all over. Il capitano Dimitri Chandler, matricola M2973.04.21/93, 106, Marte Accademia Spaziale 3005, DIM per gli amici, era comprensibilmente seccato. Il messaggio dalla Terra aveva impiegato 6 ore ad arrivare al rimorchiatore spaziale Goliath, attualmente oltre l'orbita di Nettuno. Se fosse giunto 10 minuti più tardi, avrebbe potuto rispondere: spiacente, non posso andarmene adesso, abbiamo appena cominciato a spiegare lo schermo solare. La scusa avrebbe funzionato alla perfezione. Avvolgere il nucleo di una cometa in una coltre di pellicola riflettente, spessa solo poche molecole ma con un lato di parecchi chilometri, non era il genere di lavoro che si potesse lasciare a metà. Questo era l'incipit di 3001, Odissea finale, di Arthur C. Clarke. Slower than I've at least got to tell her goodbye. Oh, come on, Doc. Think about it. What are you going to say to her? I got to go back to the future? I mean, she's not going to understand that, Doc. Hell, I'm in it with you and I don't even understand it. Eclettica. Stagione numero 14, settimana numero 9, volume numero 4. Indice. Radiohead. Imani Coppola. Friars. Time, Space, Repeat. Madison Electric. Fuck Buttons. White Denim. Paolo Benvenu. Los Campesinos. E a chiudere ci siamo ascoltati The Buddy Reverse. Cari amici, il vostro programma è terminato. Vi diamo appuntamento a domani alla stessa ora. Cari amici, il vostro programma è terminato. Arrivederci.